kan ursätta farsa på destine. Natura ta tveva tu macchè. Io te dicette prego signorina, e sotto ombrella te portai con me. Come la salta e fu in astrente mano, capo capriccio l'attaccai a te. Te voglio bene, te voglio bene, ma che tu dica fa chi senza cuore, e sulle la bugia per te s'amore. Tu non lo sai, ma hai perso la vita mia per te. Dimmi chi t'allontana a me. Occhio un puse lo ricorda mare, se guarda mentre dice mi ha scurgià, ma pur giova con macchella sera, e a fine dormante che sta qua, cassetta stende mano che sta sera, ma lascia sole come fa d'anno. Te voglio bene, ma se tu dica fatti senza cuore, e sulla rabbucia per te s'amore. Tu non lo sai, ma hai perso la vita mia per te. Dimmi chi t'allontana a me. Amore mio, ma hai perso la vita mia per te, mora, stata lontana.